Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Una delle costanti più indissolubili nella storia degli ultimi 50 anni, ma forse anche dei decenni precedenti, è il sentire, il sapore, l'assaporare il tempo della scuola. Io ho gli stessi ricordi scolastici di mio padre e di mio nonno. Mio figlio sta passando le stesse esperienze scolastiche che sto passando io. Quindi c'è un ininterrotto passaggio di testimone generazionale da almeno 60-70 anni, se non più. Poi cambiano naturalmente alcune fattispecie esterne, alcuni rituali scolastici hanno delle mutazioni, le vergini vestali che si strappano le vesti, come appunto Fiorello l'altro giorno diceva, la televisione è più quella di una volta, diranno non c'è più la buona educazione di una volta ci si alzava in piedi, quando entrava l'insegnante non volava una mosca, si andava a scuola con la giacca e la cravatta, sì è vero, forse queste cose sì, è cambiato leggermente l'aspetto esteriore. Se contrapponiamo, se vogliamo collazionare alcune foto di gruppi scolastici delle ultime 6-7 generazioni, ma in fondo l'unica cosa che cambia è il modo di vestirsi, poi ci sono dei ricorsi storici, poi non è poi tanto quello. In realtà esistono delle costanti nella scuola, perlomeno nella scuola italiana, che è quella che io conosco meglio, che forse vale la pena di ribadire questa mattina. Vedrete, telefonando a questa trasmissione, chiamando all'800 24 0024, che si confonderanno le testimonianze generazionali. I settantenni, sessantenni, cinquantenni, i trentenni, ma anche i ventenni probabilmente, avranno lo stesso ricordo scolastico. Cambiano alcune fattispecie. Io ho iniziato la scuola elementare su dei banchi di legno con la seduta a ribalta, con il buco ancora in mezzo tra le due sedute, dove ogni mattina il bidello versava l'inchiostro nel calamaio, noi avevamo il cannello con il pennino. Era un meraviglioso strumento di offesa, perché lanciato il cannello era come un giavellotto. Quello era l'unico punto di differenza con i miei figli, che avevano la penna biro e la matita. Ma per il resto era esattamente tutto uguale. Leopardi riteneva che non se ne potesse più di piagnistei. Lui pensava che la politica vera era dare al mondo distrazioni vive, occupazioni grandi, movimento, vita. Lui pensava che il fallimento maggiore della politica stava nel non mettere a frutto gli ardori giovanili. Ricordo ancora quello sguardo miope che all'improvviso si accese di interesse. E fu allora, per la prima volta, che scoprii che mi piaceva insegnare. E a un tratto mi resi conto che trasmettere abilità rende abili, che trasmettere intelligenza rende intelligenti, che trasmettere speranza aumenta la speranza. Cominciai a insegnare per questo, per togliere l'opaco dagli occhi di miei alunni. Esistono poi due punti di vista, il punto di vista dello scolaro, dell'allievo, dello studente, il punto di vista dell'insegnante. Se vogliamo astrarci e vedere un terzo punto di vista, possiamo dire che gli insegnanti si dividono bene o male in due grandi tronconi, quelli che sono troppo avanti non necessariamente con un'accezione positiva in questi termini, o quelli perfettamente allineati all'immutabile tempo della scuola. Io ricordo un insegnante che era troppo avanti, infatti nessuno lo capiva, nemmeno noi lo capivamo. Ricordo un altro insegnante che era perfettamente allineato con i tempi in cui perlomeno io facevo il liceo, insegnava storia dell'arte e ci stette 6 mesi a parlarci del tumulto dei ciompi. Era tutta la storia dell'arte vista in chiave di contrasto sociale, perché allora andavano le tesi di Argan, c'erano queste terrificanti letture della realtà in chiave marxista, quindi quello è un professore perfettamente allineato con i tempi. La professoressa, che era troppo avanti con i tempi, finì impiccata, si impiccò. Un giorno seppi che si era impiccata e non c'era più. Che cos'è questo? Mo' è un sasso. D'accordo, ma che cos'è? Una palla d'elefante. Ve lo dico io, è un pendolo. E come fa, come fa? Tic-tac, tic-tac. Uccisione di Agrippina. Il 69. Il 59. Ma è sicuro che non era nel 69? Ma come sarebbe? Era nel 59. Porca vacca, lo sapevo. L'universale in quanto spirito si ingarna nello Stato. Lo sapete, cari ragazzi, perché Giotto è tanto importante nella pittura italiana? Ve lo dico io, perché ha inventato la prospettiva. La prospettiva! forse il bello della scuola è proprio di esistere e permanere ancora in questa dimensione dell'immaginario, così sradicata la realtà. Non sarà un problema di Gelmini, non sarà un problema di ministri, non sarà un problema di punto politico, è sempre stato uguale. Chiunque abbia gestito il potere e qualunque parte, qualunque punto di vista e qualunque apertura, chiusura, ottusaggine o meraviglia politica abbia gestito il mondo della scuola, la scuola è stato sempre questo universo. Si apriva una porticina e si entrava in un altro mondo, un mondo fatto di nostalgia, fatto di dolori, fatto di tormenti. Abbiamo parlato di quale terrificante scuola di vita sia appunto il frequentare un'aula di liceo, un'aula di scuola media, quando per la prima volta si ha la possibilità di toccare con mano quella che è la crudeltà degli esseri umani, il disincanto. Poi allo stesso tempo queste meravigliose e immarcescibili figure sono sempre uguali, si passano il testimone. Gli insegnanti non cambiano mai, hanno sempre gli stessi abiti, gli stessi vestiti, lo stesso odore. L'odore di professoressa, lo sento adesso in questo studio dove è appena uscita Donna Assunta Almirante. Ecco, sento il profumo di professoressa di scuola, un profumo che non dimenticherò mai, che è sempre lo stesso. È l'odore di professore, quell'odore un po' scalcagnato, quell'odore di persona che non cura troppo la propria igiene. Perché? Perché, poveraccio, deve tenere uno status che non corrisponde probabilmente alla sua capacità di acquisto. E quindi è obbligato a avere sempre quella giacchetta, che la giacchetta è quando va a scuola, gli si cominciano a vedere che ha i gomiti lisi, e quelle scarpe che fare il moderno, poi mette le scarpe moderne, ai nostri tempi metteva le Clark, oggi mettono le scarpe da ginnastica. Bisogna sempre fare i giovanilisti per essere professori, per dimostrare di avere un carisma, di essere un passo accanto a quelle bestie che si hanno avanti, oppure bisogna fare gli austeri, bisogna imporsi delle livree che devono rappresentare il potere. 800 24 0024, qualunque sia la vostra età, qualunque sia il vostro grado di studio, qualunque sia la scuola che avete frequentato, parlatemi questa mattina dei vostri ricordi scolastici. La sezione A era considerata la più prestigiosa e non ho mai capito se c'ero finito per sbaglio o perché Giovanna si era data da fare a mia insaputa. Biagini, fratello di Luca. Mio fratello la ricorda sempre con grande affetto. Tanto un caro ragazzo. Chimenti, la figliola del dottor Chimenti. Sì. Salutamelo tanto. Grazie. Gargani, suppongo il figlio del noto capitano di vascello. Attualmente ammiraglio. Congratulazioni. Non mancherò di riferire. Manzani. Presente. Manzani, ma certo, il tuo babbo è quel signore simpatico, il vicepresidente del Rotary. No, cioè, attualmente non più. Ah, no? Da lì in poi, sull'attività di mio padre, feci calare un fitto mistero che mi annebbiò anche me. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Se la scuola, la mia lettura parziale, sicuramente suscettibile di ogni tipo di protesta, eccezione, rettifica, è sempre uguale, il cinema italiano come l'ha rappresentata? Qui abbiamo sentito Ovo Sodo, che coglie un aspetto molto particolare. L'insegnante ha un ruolo importante, però si deve confrontare con figli di famiglie molto abbienti, quindi c'è la devozione. Questa è una figura particolare, che ha una sorta di devozione verso chi... Posso tossire? Prego. Scusa, non so come... Verso i figli dei ricchi. Però prima a me interessava molto un'idea di Flaiano, che diceva: a scuola è il posto dove sempre caro mi fu quest'ermo collo, e diventa questa collina mi è sempre piaciuta. Cioè, l'idea di doversi rapportare ai grandi poeti, allo scibile umano, alla cultura, spesso passa attraverso delle macchiette che degradano e trasformano tutto in tingolo. Oppure geni, appunto, come dicevi tu, gente che è troppo avanti e che riesce ad illuminare, a scuotere, a far capire quanto Leopardi possa essere rivoluzionario, possa creare degli empiti, delle passioni. L'insegnante troppo avanti è quello che alimenta i germi del dissenso, i germi della follia, i germi della genialità in alcuni dei suoi allievi, che soltanto a posteriori, molto tempo dopo, riconosceranno il valore di quel tipo di inseminazione. Ma di solito è quello che è più reietto nell'ambito del corpo dei suoi docenti, quello considerato o un pericoloso rivoluzionario, o uno spostato, o uno che comunque rompe quell'ordine costituito, quella serie di convenzioni, per cui alcune persone in realtà scalcagnate intellettualmente, con strumenti culturali molto deboli, perché insegnare significa decodificare al massimo, non toccare mai le punte, perlomeno nella prassi, dovere ribadire e ripetere ciò che è già assodato, provato e testato, hanno una gran paura che si metta in crisi il loro sistema. Io faccio un esempio. Mio figlio, che a casa maneggia l'iPad per i suoi usi e consumi culturali, va a scuola con uno zaino enorme, pieno di libri. E guai se manca un libro, e guai se manca un vocabolario, e se manca qualcosa. E provasse mai a dire che ci sono altre maniere, altri supporti, altre forme di raggiungere lo scibile, viene subito indicato come uno spostato, come un diverso. Cioè, immagina un contesto in cui tu hai un contatto con menti fresche, con ragazzi adolescenti, e la possibilità di elaborare con loro stimoli, insomma, di aprirgli il mondo, cioè e quindi poi ti devi rapportare anche a grandi poeti, a grandi. E questo contesto ce l'hai solo a scuola, e poi hai dei ragazzi che non sono gravati dal peso, ancora dal peso della vita, quindi è una responsabilità sacerdotale. Amarcord di Fellini ci mostra invece quanto sia patologia spesso il professore. Io avevo una professoressa al liceo, per esempio, che mi ricordava molto le figure felliniane, una professoressa di matematica Vizza, sempre in camice bianco, con questi capelli a spina, inceneriva 200 una mal... visione clinica dell'insegnamento. Sì, perché aveva ribrezzo, aveva la patologia del ribrezzo del gesso, e parlava con questa voce alla Biscardi, no? Un po' da figura felliniana, e chiamava per cognome tutti i maschi che odiava, invece adorava le donne. Cioè, io penso che ho pianto di gioia il giorno in cui le hanno... Probabilmente aveva dei fantasmi criptolesbici, e quindi per chissà, questo... Chissà, e ho pianto di gioia con tutta la scuola quando è stato un furto a scuola, queste cose zanardesche, la pazienza, un furto a scuola, e hanno rubato dei computer a scuola e poi hanno preso... Volle perquisire tutte le allieve. No, presero il suo camice bianco e si forbirono le natiche dopo aver defecato a scuola. Ah, io mi ricordo, che inaugurammo noi un periodo, madonna che cosa dico adesso, forse chissà se come pena retrospettiva potrei ancora essere denunciato, inaugurammo di fare il pattume alla macchina della professoressa, la odiavamo tanto, e a turno la notte andavamo, lei aveva la macchina parcheggiata ante casa, a coprirgliela di pattume, ma lo facevamo per mesi, e mi ricordo che c'era la conta del pattume, chi toccava, si aspettava la notte fonda, rischiando naturalmente che mettesse dei sorveglianti così, ma alternavamo il pattume, e la mattina dopo tutti a guardare la faccia di questa, la macchina impattumata. Perché queste patologie innescano una patologia che è nell'adolescenza, la cattiveria sfrenata. Sì, è una scuola di crudeltà che poi mi è stata utile nella vita. Sentiamo Gennaro. Gennaro, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei cos'è stato? Sì, la sto ascoltando. Sì, ma io sono un cinquantenne, quindi posso dare un attimo una testimonianza da quello che è la differenza tra quello che ho studiato io a scuola, specialmente all'università, e quello che in effetti qualche volta insegno anche all'università tuttora. Lei è un insegnante, quindi? Sì, diciamo che tra le altre cose insegno anche all'università. Mm. E, quindi devo dire questo, che oggi si è un po', ma non solamente per i ragazzi, anche chiamiamoli ragazzi perché se... C'è un po', come si suol dire, la licealizzazione dell'università. Sì, sembra meglio dire animali, comunque diciamo ragazzi. Come animali, perché no, assolutamente. Quindi cerco di essere un attimo sintetico, spero. In effetti, oggi si cerca di accondiscendere questi ragazzi, e quindi si evita di farli studiare sui libri, si evita di farli impegnare più del necessario, che pretendono anche questo. E non solamente loro, anche sfortunatamente le famiglie. Invece, ma questo dove? Perché io, per l'esperienza personale che ho al liceo, si spaccano le ossa, studiano, hanno tanti compiti da fare ancora. No, in effetti io penso che sia tutto il contrario. Anzi, ho dell'esperienza diretta, quindi è così anche all'università, guardi. Infatti, no, che l'università sia cialtrona lo so benissimo, perché anche io ho frequentato ogni tanto, poi non mi piace molto la docenza universitaria e si ha a che fare veramente con degli zombie o degli alieni, soprattutto totalmente disabituati a avere un minimo di rapporto creativo con l'insegnante, stanno lì, devono consumare il loro credito, t'ascolticchiano se gli va, difficile scuoterli, e quando ci riesci scoppia la faida da parte degli altri insegnanti, vieni allontanato, perché io mi ricordo una volta ebbi un insegnamento all'Università di Pisa e feci un corso molto divertente e feci fare ai ragazzi proprio una cosa concreta, produssero alla fine un loro elaborato, e gli altri rimasero di stucco, cioè, ma come, non siamo mai riusciti a fargli fare nulla, come hai fatto? Infatti non ci andai più. Diciamo che però vorrei ritornare un attimo a quello che è, non tanto queste come dire, manifestazioni di contatto con loro, che sono importanti, però il punto fondamentale è che si è perso invece viceversa quello che era la tradizione della nostra università, che ci distingueva tanto e ci faceva fare delle bellissime figure all'estero. Cioè? E in effetti quello che noi, anche se avevamo pochi mezzi, però l'università ci dava dei fondamenti, proprio perché avevamo pochi mezzi. Ma con chi se la prende di questo? Lei fa l'insegnante? Sì, sta a voi. Un po' con noi, perché seguiamo appunto come dire, la scia, quindi la corrente. Allora, se vi siete già tagliati le palle per conto vostro, scusi il termine colorito, con chi volete prendere? Io sto incitando un attimo i professori che hanno un attimo un metodo di studio che in parte anche quello antico, quello dell'università passata, in cui... Ma io penso che possa essere anche cretissimo il medico, è il glamour che manca, è la vitalità, è il piglio, è il mettersi in gioco. Se il professore non si mette in gioco all'università come se andasse al catasto a trimbare il cartellino o per occhieggiare e palpeggiare le studentesse o per così fare una delle tante attività, è chiaro che lo studente lo avverte, non si eccita ad ascoltarlo e quindi sta lì e la cosa finisce lì. A Sansonna ci vuole qualcosa di attoriale, adrenalinico nel professore, per appunto calamitare le passioni, per eccitarle, per stimolare. I ragazzi hanno tutti dei talenti, ciascuno, vanno scoperti dal professore, secondo me. Primo. Sì? Primo, parla del suo primo giorno di scuola. Primo giorno di scuola terribile. È uno stanzone enorme in una scuola sull'Appennino, Appennino bolognese, uno stanzone enorme, prima, seconda, terza, quarta, quinta, tutti insieme, da una parte i maschietti grembiuli nero e fiocchetto azzurro, dall'altra parte le bambine, vestitine grembiule rosa, fiocchettino bianco. A me mettono proprio nell'angolo, giù in fondo all'angolo, che si passava appena, la maestra tutta vestita di nero con un grembiule nero, con una pelle bianchissima, un rossetto vistosissimo, unghie laccate di rosso vistosissimo, io mi sono impaurito. Ma siccome che ero molto magro e piccolino, la maestra chissà cosa voleva dirmi e venne per dirmi qualcosa, io mi impaurì, saltai sul banco e siccome eravamo a pian terreno, la finestra era aperta, sono saltato giù dalla finestra e sono scappato a casa. Mio padre, che faceva il muratore, quel giorno pioveva e non andò a lavorare, mi vide entrare in casa. Io ho attraversato un campo appena arato, pensi un po', pensi più che pioveva, arrivai a casa che ero ridotto. Mio padre si prese paura, attraversò la zolla terrificato dalla maestra che si voleva mangiare. Sembrava, siccome che in casa mia avevamo avuto dei problemi a Marzabotto con fucilati dai tedeschi, mia mamma mi raccontava che erano tutti vestiti di nero i nazisti, io vedendo questa maestra vestita di nero, tutta così imbellettata. Però dica la verità, ce l'avesse oggi per le mani non penserebbe la stessa cosa. No, perché poi si verificò proprio quello che dicevo io, era cattivissima, perché dopo tornai a scuola, ma era cattivissima, picchiava di brutto. Guardi, io non so quanti anni abbia lei. Io ho 59. Io sono poco più giovane, lei molto poco più giovane, ma un po' più giovane. Però ricordo che anch'io in prima elementare la maestra aveva la canna, che ancora dava le cannate. Sì, era normale, e quelli dei primi banchi si abbassavano e beccava i secondi. Ma picchiava di brutto, bastava che tu facessi una cosa, dicessi qualcosa fuori posto. Poi quando lei bacchettava, io mettevo il palmo perché faceva meno male. Invece lei voleva... voleva darle sul dorso, certo. Sulle nocche, ma è fantastico. Gira la mano, con righello. Ma guardi, sembra impossibile. È veramente il passo generazionale fortissimo. Sì, oggi raccontasse una cosa del genere dei nostri figli, andrebbe la forza pubblica, ci sarebbe l'esercito sotto la scuola dopo 30 secondi, giustamente metterebbe in gattabuia la messa. Ma io sono stato menato, non ci trovavo niente di strano, tornavo a casa e ci hanno fatto bene e ci davano la giunta. Quanta meravigliosa perversione, questa era una mistress ante litteram, non c'era appunto del feticismo. Sì, anche infatti. Perché infatti l'ho detto, l'avrebbe apprezzata poi negli anni questa Grimilde in gramaglia appunto. Immagina coi bidelli con i suoi colleghi cosa poteva inventarsi questo. Però era bello, c'era questa sorta di non detto in sottotraccia di cui subivano i ragazzi. Però è appunto tutto questo rimaneva nel chiuso claustrale delle aule. Oggi con YouTube, per esempio, tutta questa perversione viene fuori perché vengono pubblicati al mondo i maestri ripresi con i videofonini. Qualche giorno fa una scrittrice amica mia, Barbara Alberti, disse una cosa che mi ha fatto riflettere. Dice: una volta nelle coppie non c'era bisogno dei frustini, dei bastoni, perché menavano i ragazzini, si sfogavano il loro istinto sadico menando i ragazzini, i figli, e a scuola menando naturalmente i propri allevi. 800 24 00 24, mi sembra che la piega sia quella giusta. Telefonate e parlate dei vostri cari ricordi scolastici. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Se parli ti ammazzo. Chi è stato? Chi è quel mascalzone? Chi è stato la pagherà. Questo è troppo. Vieni qui, fermati, brutto birbante, vieni qui! Ha rotto un vetro della scuola! Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe: voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. Egli è nato in una terra gloriosa che diede all'Italia degli uomini illustri e le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati, in una delle più belle terre della nostra patria. Il libro Cuore fu scritto nel 1800, no, fu pubblicato nel 1888 da Amici, fu scritto un paio d'anni prima. È un libro che ancora la mia generazione, ragazze degli anni 50, riceveva a regalo perché si aspettavano da noi che lo leggessimo e piangessimo. Io leggevo e ridevo come un pazzo, ancora rido, ancora trovo un testo meraviglioso. Cercherò di farlo leggere ai miei figli, anche se sarà difficile, perché è un po' lontano. Comunque nel libro Cuore già c'è tutto. Già le tipologie dei piccoli stronzetti con la macchinina che possono capitare oggi come incubo di un ginnasiale ai nostri tempi, già erano rappresentati nel libro Cuore. Votini, lo snob, già era il figlio di papà con la macchinina e con l'iPhone e il maglioncino firmato che oggi si vede. Già Franti è il cattivo dei cattivi. Fece quella tristerrima riabilitazione di Franchi, di Franti, Umberto Eco nel suo diario minimo, non molto convincente, perché dette nel suo ordine di riferimenti a Franti la dignità di essere l'anarchico Bresci, ma Franti era un povero coatto di città, dei sobborghi torinesi, probabilmente sarebbe finito oggi a spacciare cocaina o cose del genere. Tu come la pensi, Giuseppe? Sì, Franti, il ruolo che gli dà Eco è la demistificazione. Comencini invece lo recupera perché cerca di inquadrarlo in una sorta di... mentre Corini nel suo diario Cuore sparisce Franti, va all'ergastolo e diventa questa sorta di negazione metafisica di tutto quel contesto di melassa che crea De Amicis, che qui invece abbiamo sentito molto bene letto da Carmelo Bene, che ne coglie tutta la retorica e ne dimistifica la retorica patriottarda di buoni sentimenti. Ma lo stesso tu De Amicis, uccidi tua madre, Franti, e lo sciagurato rideva, rideva, sì, che doveva far piangere, certo. Ma lo stesso De Amicis infatti poi rimeditò su quanto gli era sfuggito di mano, forse c'era quella volontà quella voglia di un po' demagogica di creare un paese, di creargli una coscienza civile, etica. Oggi appunto è passata per altri rami, appunto, cioè il bullismo, la ferocia poi diffusa, cioè questa etica in fondo non c'è di fondo e quindi anche nei contesti adolescenziali emerge violenta. Sì, ma la ferocia oggi degli adolescenti è una ferocia di tipo coatto, anche se sono figli di famiglie dei quartieri alti, sempre un quattume di fondo, una mancanza di cultura. È feroce colui che sta in una famiglia inculturata, una famiglia arricchita o ricca, ma però che non sente il fremito del tempo che sta vivendo. Ma infatti oggi, pasolinianamente, oggi non c'è differenza fra le classi basse e quelle alte, appunto è indistinguibile il bullo, il violento, cioè ha un atteggiamento volgare, cafone, con questo basic Italian che impara dalla televisione, potrebbe appartenere a Torre Mauro, alle borgate estreme di Roma, così come ai parioli. Beh, l'essere pieni di sé, la cifra che accomuna comunque il quattume generale nel nostro paese, che è un quattume, può essere benedetto da vite agiate o maledetto dall'emarginazione. Sentiamo Luigi. Luigi, sì, eccomi qua. Buongiorno professore, sono in piedi. Ma che professore, professore un piffero, dai. Allora, io volevo condividere con lei e gli ascoltatori la mia esperienza al liceo. L'andamento del mio liceo è hegeliano, nel senso che antitesi pubblica in un istituto pubblico e poi tesi, antitesi e antitesi. Ho fatto un po' di confusione. Allora, vabbè, parli come mangi, è che meglio, non voglio far bella figura a tutti i costi. Sì. Dopo la mia esperienza in un istituto pubblico sono andato dalle Orsoline. Punizione ce l'hanno mandato? No, perché volevo fuggire dalla scuola pubblica. A lei decise, vado dalle Orsoline? Io ho deciso di andare dalle Orsoline perché una mia compagna di classe era passata dal liceo pubblico alle Orsoline, per cui io seguì questa mia compagna di classe, mi dissero che avevano da poco aperto ai maschi e io mi resi conto di essere l'unico in tutta la scuola praticamente il primo giorno in cui io mi trovai dalle Orsoline. Ma era spinto da una recondita criptogaiezza o satiriasi diffusa per cui pensa l'unico maschio alle Orsoline? Da un priapismo cronico. Certo, ecco, come il mutolo del convento delle suore in Boccaccio, le andava lì, faceva il finto tonto, ma sapeva che la fibrillazione generale sarebbe stata su di lei. È avvenuto questo oppure no? No. No, direi che poi conservo anche una classica fotografia di gruppo dove io sono l'unico ragazzo circondato dalle donne, proprio un James Bond dei poveri. Io la conservo in un cassetto nella casa del mare, ogni tanto la osservo con mestizia, tristezza, però anche con affetto, perché mi ricordo un periodo bello, mi hanno coccolato, sono stato bene e penso appunto di essere stato... Sì, ma faceva lo zacchiotto delle bambine, alla fine finiva lì, non è che era una cosa di grande gloria prepesca alla fine star lì. Assolutamente, però il fatto solo di essere circondato dalle donne mi entusiasma. Le bastava, bastava avere dei fantasmi di riferimento, poi... avrà avuto modo in altri luoghi, in altri tempi. Beh, quindi il suo ricordo dell'insegnante, saranno suore che insegnano le orsoline? No, per quanto riguarda religione, anzi anche un teologo che ancora oggi... Ma le altre discipline? Le altre discipline, ricordo una professoressa di filosofia fantastica, laica, bravissima che insomma mi ha dato degli insegnamenti che porto ancora, veramente una persona eccezionale, anzi se sta ascoltando io non la vedo più da anni, No, ma io la invidio, secondo me è stata un'esperienza interessante, curiosa perlomeno, vivere nascosto nel gineceo è il sogno di ogni uomo, no? Di ogni uomo, rubare e carpire i segreti delle donne stando nell'ombra, la cosa che tutti vorremmo fare, pagando anche lo scotto della mimesi, come il Pelide Achille nascosto fra le ancelle per non andare in guerra, c'è un momento della vita uno può fare. Come un eunuco in un harem, sì. Però un eunuco a tempo determinato dovrebbe lasciare un attimo le palle da parte, entrare e poi riprendersele, perché non può essere reversibile. Bene, Luigi, grazie. Stefano. Pronto? Stefano, eccomi. Lei ha fatto una scuola maschia invece, Istituto Tecnico Agrario. Esatto, dove proprio di donne non ce n'erano. Certo. Tra l'altro io venivo dall'esperienza delle scuole medie dove ancora i maschi e le femmine erano divisi, per cui io... Beh, lei pensi, io ho vissuto il primo anno in cui cessò l'apartheid dai salesiani e arrivarono, io facevo già il secondo liceo, arrivarono le ragazze del quarto ginnasio, dopo 3 anni di media e 2 anni di liceo in totale isolazionismo maledetto in cui la donna veniva disegnata con le corna e con la coda, figuriamoci che cosa poteva essere, quindi so, conosco. Era un mito, insomma, poter avere una donna, era un'eccezione, insomma, vabbè, allora era così. No, cambiò proprio l'alone olfattivo, l'aria, quell'odore di minestrone, di piede di prete, un po' di incenso, di sudato di pallacanestro, svanì improvvisamente e arrivarono i primi profumi delle ragazze. Mi ricordo, cambiò, era una primavera, il primo ottobre era già primavera. E invece io volevo dire... di come appunto tra ragazzi poi si intuisse subito chi si aveva davanti, perché mi ricordo quell'anno, eravamo nei primi anni di questo istituto tecnico, comparve un professore, un supplente di italiano che avrà avuto 40 anni, allora adesso mi sembrava vecchio, ma avrà avuto 40 anni ed era il classico professore buono, mite, e che voleva darsi un tono, per cui veniva in cravatta eccetera eccetera, però noi chiaramente l'avevamo subito inquadrato e vabbè, l'avevamo fatto oggetto di una serie di incredibili scherzi, poveretto, e me ne ricordo un paio, se volete venire a conto. Sì, se sono crudeli, sì. No, sono tranquilli, lui arrivava sempre salutando e lanciando un borsone gigantesco sulla cattedra, che allora era ancora appoggiata su una pedana in pratica, e allora quella mattina... avevamo preparato la cattedra a filo della pedana. Ah, beh, questo facevamo anche noi, beh, questo è un classico. Quando arrivò, il poveretto era... Noi lo facevamo con una povera professoressa di musica, mettere la cattedra a filo della pedana. Spiego un attimo. Le cattedre avevano dei piedini di ferro. È diciamo il mobilio scolastico anni 50, anni 90, che rimane sempre lo stesso. E c'era la pedana sotto, perché professore doveva avere un rialzo rispetto all'angolo visivo dei suoi alunni. Si mettono i piedini della cattedra a filo della pedana, come lui si muoveva un po' sulla cattedra per il registro, tracollava la cattedra. Puntualmente nessuno controllava e cadeva sempre la cattedra. Un bello scherzo. Era classica. Poi la volta dopo noi andavamo col treno, perché andavamo a scuola a Treviglio nella pianura bergamasca. E allora sui treni, non so se c'è ancora adesso, c'era il posto riservato ai mutilati, agli invalidi di guerra, e c'era un cartellino. E allora avevamo per un periodo staccato il cartellino, lo facevamo comparire sulla cattedra e ci divertivamo con poco. Ah, certo. E questo naturalmente, il fatto che si continuava a ridere semplicemente perché uno spiegava con questo cartellone lì: ma cosa avete da ridere? Cosa avete da dire? No, niente, niente. E va bene, insomma. Sì, c'è un'altra cosa ancora più crudele, è molto legata all'Umbria fescennina. Dunque, c'è un periodo dell'anno in cui le persone affette da una patologia molto diffusa che è il favismo non possono stare a contatto con il noto baccello perché entrano in una sorta di crisi, di shock anafilattico. Quindi nei mercati generali all'aperto ci sono dei cartelli grandi con scritto qui fave fresche. Questi cartelli le puoi immaginare che una volta estrapolati e portati a scuola erano grande oggetto di divertimento e di pubbliche affissioni nei luoghi scolastici. Giuseppe. Comunque le risate che ci si fa a scuola poi non le si ritrova più, cioè quel senso di costrizione, quell'essere costretti al silenzio, al mutismo, all'ascolto, queste figure poi davano spettacolo involontario che sono i professori, non lo ritrovi più. Io avevo una professoressa di liceo che parlava, cioè che parlava, per esempio spiegava Eschilo in diaresio, Oreste giudice a Clitennestra, che sarebbe Oreste dice a Clitennestra, cioè tutto Eschilo che degradava nell'intingolo del vernacolo dialetto, cioè, e quelle risate contenute non le ho più ritrovate. È vero, manca una dimensione. Me la sto recuperando adesso questa mattina, e oggi devo fare tutta un'altra trasmissione, naturalmente. Eravamo pronti su un altro versante. È venuto fuori questa sorta di teatro immersivo, spontaneo. L'altro giorno avevo citato un noto notaio e avvocato perugino che esponeva la sua virilità abnorme sul banco. Mi sono tentato di dire il nome, ma non lo posso dire. Che faceva parte comunque di una sorta di galleria di personaggi. Ci siamo dimenticati. Io andavo divertito a scuola, non vedevo l'ora di arrivare a scuola perché era il luogo in cui si faceva casino. A casa mia erano tristissimi, sempre facce triste, musi lunghi. Invece andavo a scuola e mi divertivo come un matto. 80024 0024 a tra un istante dopo le informazioni del traffico. Connu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Signorine, ieri mi sono levato la curiosità di prendere note, di controllare tutte quelle di voi che sono uscite dalla classe. Sedute, state sedute. Sette di voi hanno, non ridete, sette di voi hanno ottenuto il permesso di uscire di classe. Particolare curioso. Queste sette hanno consegnato i compiti migliori. Ora non voglio pensare che abbiate approfittato di questa uscita per consultare i testi. Ad ogni modo questo rafforza ancora di più la mia decisione di ieri. Perciò, se qualcuno di voi dovesse avere un bisogno, si può accomodare qui. Non ridete! Stiamo parlando dell'abnorme vita scolastica, eravamo iniziati per fare un quadro sulla immutabilità del luogo scolastico, siamo arrivati alle abiezioni, al teatro, al grottesco della scuola, grottesco rappresentato dagli insegnanti, grottesca complicità tra studenti, nel contrapporsi a quello che era il mondo degli adulti in maniera scurrile, in maniera violenta, in maniera divertita, scherzando. Io ho appena scritto nel mio profilo Facebook, su Facebook solo Pantegani Invisibili, dove siete vecchi amici e tenere amiche, tutti morti, sono tutti morti, non ci sono più, non c'è più questo spirito, non c'è più questa voglia, non c'è più questa complicità nell'irridere la realtà. Pensa se ci fosse lo stesso clima nel mondo del lavoro, quanto si lavorerebbe meglio e quanto sarebbe più produttivo il paese. Sì, c'è una sorta di seriosità, qui abbiamo sentito... Ecco, Tognazzi, esattamente, cosa fa? Tognazzi, strepitoso professore ferreriano nel film Controsesso di Ferreri, sembra un Andreotti giovane, tutto imbrillantinato, con occhiali spessi, molto baciapile, con queste vecchie che lo accudiscono, la nonna, insomma, che gli mettono... A Todi, mi sembra una città... A Spoleto, sono a Spoleto. Riconosco, infatti. Siamo una scuola pre-sessantottina alla sorvegliare e punire di Foucault, e lui, appunto, per controllare, per evitare che vadano a copiare fuori queste, le sue ragazze, le sue allieve, mette un... bagno, costruisce una vecchia toilette dentro, sì, sì, soppesa pitale. In realtà perché era un maniaco, voleva sentirle, voleva sentire l'odore, auscultare le sonorità fisiologiche delle sue leve, e che maliziose ragazzotte di paese capiscono, però questa è la sua intenzione, ne svelano dietro la regola la perversione, sì, che già dimostravano fa... 50 anni, erano ragazze, sì, hanno avuto 16, sì, anni. Già al tempo, pur avendo i grembiuli, tutti erano delle cinquantenni, maliziosissime. Nermorute, con i polpacci alla Sebino Nela, insomma c'era tutta questa. E colgono appunto il lato, l'anima perversa dietro questa compostezza. Sì, lui con la sudarella, loro entrano dentro questo armadio che aveva portato in classe, e lui fuori si vede che era vicino all'estasi e non riusciva più a controllare. E qui questa cura maniacale del dettaglio che aveva Ferreri, ci scolpisce un professore strepitoso che puccia il suo biscottino, la perversione, puccia il biscottino nel marsala, appunto farsi mettere il borotalco dalla nonna ai piedi, che contende con un'altra vecchia questo privilegio, insomma tutta questa dimensione rituale, questi riti tipici di somiglia a Lele Mora con Costantino Vitaliano e Interrante che gli massaggiano i piedi, sì con un altro appeal forse questa Smeralda. Gianni mi fa segno Fabrizio Intonti, devo chiamare le telefonate, giusto Gianni? Sì, buongiorno. Avanti. Buongiorno a tutti. Buona cosa... giornata Gianluca, io sono del 48. Bravo. Cioè un piede nella fossa, e vabbè, pazienza, va avanti. Topi della Fossa. Sì, più o meno. Dai, ascolta, allora io ho fatto l'elementare dal 54 al 60. Mi ricordo che alle elementari, nel momento di ricreazione, della ricreazione, davano un bicchiere di latte in polvere. Eh sì, andava molto, andava molto. Vero? Era lo stesso latte in polvere misto a bromuro che ci davano poi durante gli anni della Naglia, qualche anno dopo. Ascolta, il bromuro a 6 anni, 7 anni, non so se cosa poteva servire, però. Vabbè, sì, a preventivo. E poi c'era quella stufa enorme rossa, in mattoni rossi, no? Ah, certo, sì. Che andava a legna, quindi era a legna, o sennò con gli ovetti di carbone. Eravamo una quarantina in classe. Quindi eravate, diciamo, allevati a latte in polvere, che erano ancora le schifezze del piano Marshall che arrivavano. Latte in polvere, un panino con un po' di marmellata. E respiravate monossido di carbonio in quella stufa. Esatto, poi il bicchiere, diciamo, sui tavoli, no? sui banchi d'inchiostro. Che si versava sempre. E questi tavoli vecchi, neri, e il grembiule, col grembiule andavamo, grembiule nero. Tutti. Vi menavano almeno, sì. Le botte le prendevate? Ci menavamo. Se no, che vita è? Poi dopo si arrivava a casa con qualche segno e la mamma ti dava il resto, perché dovevi difenderti. Ci faceva la giunta, se diceva. Mica come adesso che quando un bimbo va a casa, dopo vanno a litigare i genitori, capisci? Lo so. A Bari si dice dare il resto, a voi si dice la giunta. La giunta. Adesso ti diamo la giunta. Adesso, cioè, a Bari si dava il resto, tu prendi in botte al professore e poi veniva completata l'educazione. Però vede Gianni, erano anni duri, poi ne siamo usciti forgiati, diciamo la verità. Poi un'altra cosa, le medie, ricordi un professore di tecnica aziendale, no, eravamo una scuola commerciale ovviamente. Sì. E quando dava il compito in classe, mettevi il giornale in piedi sulla scrivania, diciamo, sulla cattedra, e poi ci faceva un buco in mezzo scaccolare e tirava le caccole, capisci? Ah beh, era raffinato. Era un divertimento, una cosa che... Quindi quello era come il bunker della linea Maginot, c'era dietro il professore che sparava cannonate di caccola. Sparava delle cannonate di caccola. Ma voi potevate rispondere oppure dovevate semplicemente evitarle? Noi dovevamo evitarle, capisci? Vabbè. Dopo lui... Ma poi è una cosa che lui lo sapeva, lo faceva così, una forma di provocazione, diciamo. E allora ci si divertiva un sacco con questo professore. E me l'immagino, ancora sento il riso nella sua voce. Luca. Buongiorno a tutti. Dove sta parlando, Luca? Da Milano. Ah no, ecco, ma sembra che parlasse dentro un bicchiere. Adesso la sento. No, sono sul cellulare, forse è la linea. Vada con i suoi aneddoti scolastici. Allora io ricordo, ero elementari, sono del 72, sì. E la maestra fa il classico dettato, inizia a dettare, noi cominciamo a scrivere, era primavera, e avevamo le finestre aperte, lei a un certo punto smette di dettare e inizia a spiegare, quando poi ha ricominciato a dettare il quaderno aveva girato le pagine da solo, perché probabilmente il vento, l'aria, sì, aveva girato le pagine e io ho ricominciato a scrivere da un'altra parte, non nella pagina in cui avevo cominciato a scrivere. E quindi? Prima. E quindi? Quindi è successo che poi lei mi ha fatto rileggere il dettato e io ho cominciato da una roba che non c'entrava nulla, perché l'inizio era diverso dagli altri. E no? Fu punito con punizioni corporali? No, sì, praticamente sì, mi ha preso per un orecchio, sì, e mi ha fatto fare il giro di tutta la scuola, classe per classe, a far vedere che io avevo scritto metà dettato. Sì, da una succedeva parte. Questo, infatti noi abbiamo delle orecchie molto a sventola e molto provate per questo esercizio. Facendo studio di noi, ringrazio Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti e Giuseppe Sansonna, e la prossima volta saremo più dettagliati sulle torture scolastiche. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.